Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. A giudicare da molti centri di ricerca del mercato immobiliare è tornato il momento di fare affari con il mattone. Il settore ha registrato in molte zone d'Italia una flessione interessante dei prezzi, abbiamo monitorato costantemente negli ultimi mesi, il costo del denaro è a livelli molto bassi, le banche stanno riprendendo a fare credito senza regalare niente a nessuno, ma sono forse un pochino meno rigide dei mesi passati, eppure non si guarda solo alla prima o la seconda casa per tornare ad investire nel mattone. C'è anche un altro segmento di mercato a cui molti investitori guardano con interesse, quello dei box e dei posti auto. Un'indagine del network Tecnocasa mostra che nel secondo semestre dello scorso anno si è registrato un calo delle quotazioni fra l'1 e il 2%, solo a Firenze il valore dei box sarebbe aumentato, per il gruppo Gabetti le quotazioni dei box sono rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi 6 mesi, ma i rendimenti sono stati in media più elevati dell'affitto di un appartamento. E allora, partendo da queste due ricerche che abbiamo trovato e analizzato, oggi ci chiediamo che prospettive indica questa situazione, quali città hanno manifestato le tendenze più interessanti tali da rendere allettante in questo momento l'ipotesi di effettuare questo tipo di investimento. Due gli interlocutori con noi questa mattina che risponderanno, se volete, alle vostre domande, alle vostre sollecitazioni all'800240024. Bentornato a Guido Lodigiani, direttore ufficio studi di Gabetti Property Solution. Grazie, buongiorno a tutti. E benvenuto invece a Fabio Guglielmi, presidente di Professione Casa. Buongiorno a tutti, grazie. Insieme fate 1300 agenzie sparse sul territorio, sono due grandi network immobiliari per cui sicuramente potranno dirci un po' magari qual è la città anche più interessante se si vuole acquistare un posto auto, un box o anche magari, che ne so, una cantina, una soffitta piuttosto che un'intera abitazione. Quindi un po' l'investimento immobiliare, non dico alternativo, però insomma magari parallelo, se uno un'abitazione ce l'ha già, magari vuole un po' ampliare l'investimento. Il numero verde per i vostri interventi ve l'ho dato, vi posso anche dire che ci potete scrivere al 349-238-6666. E prima di cominciare la nostra chiacchierata, prima di sentire la nostra scheda, la borsa era partita molto male stamattina con ribassi di oltre un punto che erano seguiti a quanto accaduto ieri sera a Wall Street. Il mercato americano ha chiuso con un ribasso di un punto e mezzo. Sul Dow Jones sono pesati i titoli del settore energetico, i titoli del settore bancario, si è già esaurito l'effetto della decisione di Pechino di concedere una libera fluttuazione sul mercato dei cambi allo yuan. Infatti il mercato valutario è anche più tranquillo, l'euro sul dollaro oggi è 1,2289 e dicevo l'Europa era partita male, ma adesso molte piazze hanno già recuperato praticamente quasi tutto. L'unica eccezione è Parigi che perde ancora mezzo punto, Francoforte perde lo 0,10%, Londra meno 0,39%, Milano sulla parità perdeva più di un punto, Milano invece ha recuperato più rapidamente delle altre. Stanno recuperando proprio le banche. Monte dei Paschi più 1,12, il gruppo ha fatto sapere che rimborserà i Tremonti Bond senza fare ricorso ad aumenti di capitale. Intesa San Paolo in rialzo di un punto, slitta ancora la quotazione di Fideuram. Azimut più 0,9, Ubibanca più 0,7, più 0,87, Telecom più 0,78%. I cali invece stamattina li troviamo sul settore delle materie prime, quindi in ribasso di un punto e mezzo Tenaris, Prismian, anche Parmalat perde un punto e mezzo, meno 1,22 Pirelli, ribasso di un punto per Eni e anche per Unipol. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo a parlare di mattone. Che ne dite di un bel investimento in un box o in un posto auto? Anche una delle ultime certezze che era rimasta agli amanti del mattone sembra essere caduta. Così come quelli delle abitazioni, anche i prezzi dei parcheggi stanno calando. In particolare, secondo una recente indagine di Tecnocasa, rispetto allo scorso anno il valore dei box è sceso in media del 2,5%, mentre quello dei posti auto è calato del 4%. Tengono bene solamente le zone centrali delle grandi città. A Milano, ad esempio, nelle aree di maggior prestigio, le quotazioni di box si aggirano intorno agli 80.000 euro, mentre i posti auto viaggiano sui 45.000. A Roma si sale addirittura a 250.000 euro per un box nel centro storico e 200.000 per il posto auto. Guardando nel complesso all'ultimo anno, la maglia nera tra le principali città spetta a Napoli, con un crollo nei prezzi dei box del 10%, mentre Genova guida la classifica in negativo per quanto riguarda i posti auto, meno 4,3%. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Le stavo già controllando dalle anticipazioni che le ragazze del centralino mi scrivono sul monitor. Vedo già che c'è molto orientamento a farci domande su il settore immobiliare in termini generali. Oggi vorremmo fare un punto della situazione invece un pochino più specifico, per cui orienterei anche i vostri interventi su questo. Box, posto auto è un ambito di investimento che vi interessa, su cui state riflettendo? Magari se si abita in una grande città, insomma, è veramente raro trovare un parcheggio, non dico sotto casa, dipende dalla zona in cui si abita, però è davvero, come dire, un parcheggio vale quanto l'oro. Fabio Guglielmi, professione casa, box, posti auto, è un mercato di scarso riferimento per voi oppure... È un mercato interessante. È un mercato interessante. Dobbiamo ricordare innanzitutto due dati. Il primo, l'Italia è la nazione in Europa col maggior numero di auto pro capite. Il secondo, le nostre città non sono pronte a ricevere tutte queste auto. Quindi storicamente box e posto auto sono... Per la grande felicità dei comuni che multano tutti quanti e che quindi rimpinguano i bilanci anche attraverso quel modo là. Comunque. Per interminabile ricerca di parcheggio. Quindi box posto auto innanzitutto acquistato non come investimento ma per uso, perché le famiglie richiedono questo. Il box ha certamente il grande vantaggio di avere dei costi di gestione molto bassa, quindi chi intende acquistare un box per fare un investimento si trova ad avere un rendimento certamente più alto di quello che rende un'abitazione, anche in virtù del fatto che ha costi di manutenzione pressoché zero. Quindi la certezza di un rendimento più alto voi avete, sostanzialmente. Quindi, non c'è una relazione con la città, per esempio, in cui l'investimento si fa, ma in termini medi rilevate che questa tendenza è consolidata? Io direi che tendenzialmente l'investimento su un box soprattutto ha... in termini trasversali in Italia un rendimento superiore al 5%. Certo che poi anche lì dipende ovviamente dal posto in cui questo investimento si vuole fare. Mi raccontava la mia collaboratrice Gaia Romani, che frequenta molto spesso Roma, che ha visto un annuncio per la vendita di un box a 250.000 euro in centro. Dice era veramente una catapecchia. Quindi anche lì, poi per carità, Roma è sempre Roma, come Milano è sempre Milano, però anche lì bisogna fare delle valutazioni. Non è che perché perché la città è buona, comunque è un investimento che vale la pena comunque essere sostenuto in questi termini così onerosi. No, guardi, addirittura se abbiamo avuto casi in cui c'erano persone che acquistavano dei negozi e li trasformavano in box nei periodi d'oro, diciamo 2006-2007, al mercato immobiliare italiano. È evidente che la difficoltà di parcheggio è tanto più presente nelle aree centrali e semicentrali rispetto a quelle periferiche, quindi chi non acquista il box per una propria necessità ma per un investimento è preferibile che individui in queste zone le aree in cui reperire e ricercare il proprio box, il proprio investimento. E infatti Guido Lodigiani, allora responsabile dell'ufficio studi di Gabetti, buono, leggo un vostro report recente, l'andamento del numero delle transazioni nel primo trimestre di quest'anno per la categoria che comprende i posti auto, più 5,6%, avete esplorato un po' tutte le città, insomma che ambiti territoriali avete monitorato? Ma no, sono dati ufficiali che riguardano i media al mercato, diciamo che sicuramente le metropoli si stanno muovendo meglio in termini di transazioni residenziali, immaginiamo anche di pertinenze collegate, quindi anche di box. Una cosa che vorrei aggiungere è che oltre a questi dati, appunto con rendimenti medi del 5-6%, ci sono delle tendenze trasversali un po' in tutte le metropoli e anche in tanti capoluoghi, cioè ci sono delle zone storicamente interessanti dal punto di vista box, per esempio i centri storici, per esempio le zone vicino ai tribunali o agli ospedali o alle università, quindi zone dove c'è un forte afflusso, come dire, nei giorni feriali di solito o festivi, di utenza extra zona, e quindi questo chiaramente aumenta il valore e la capacità di rivalutazione del box stesso. Quindi in certe zone, in certe città con queste caratteristiche, diciamo è un tratto che abbiamo trovato in modo costante. No, tra l'altro sarà anche difficile intercettarli questi box auto, posti auto, perché sono quasi tutte zone pedonali, quindi veramente qualche volta la ricerca è una caccia al tesoro. Assolutamente sì, infatti bisogna, un consiglio per gli investitori, di analizzare molto bene la zona in cui pensano di investire, il quartiere, vedere se ci sono iniziative in essere o no di nuovi sviluppi, magari con diritto di superficie, cooperative e altre, oppure no, spesso nei centri storici non è possibile per motivi strutturali. Parlava di tribunali prima, per esempio vicino al tribunale di Milano un posto auto o un box auto quanto può arrivare a costare al metro quadro? Ma diciamo 80.000, 100.000 euro potrebbe essere un box, sono valori... Di grandezza? quello standard sui 15 metri quadri, poi ci sono i box doppi, dipende un po', con un'altezza diciamo 2,70-2,90. No, stavo pensando, certo, Guglielmi, che per quei prezzi là si prende anche in considerazione un monolocale a quel punto. Sì, certo, non sì, magari nella stessa zona, magari un po' più lontano, sì, però cioè, lì veramente bisogna vedere se serve assolutamente il box auto, si deve fare un investimento immobiliare, basta. Sì, come investimento immobiliare, lo ripeto, è un investimento per certi versi più semplice, più facile da gestire, più facile da affittare, la richiesta è molto alta, probabilmente in termini assoluti di rivalutazione potrebbe essere che invece l'immobile paga maggiormente nel lungo periodo. No, infatti io ho fatto questa domanda ma non mi ero accorta che avevamo Maria Paola dalla provincia di Milano che credo proprio volesse fare un paragone di questo tipo, box e monolocale. Maria Paola, buongiorno. Bene, sono qua. Sì, presente. Senta, presente, allora lei, siccome è talmente cara, già la sento. La passione si sente, tanto che io non esco di casa la mattina per sentire la vostra trasmissione. Allora, guardi, siccome lei sta così volentieri in nostra compagnia, le chiedo di aspettare ancora un minutino, perché adesso Paolo Corleoni manda in onda il meteo, la pubblicità, e poi ci racconta il suo caso e ci spiega magari cosa vorrebbe fare del suo risparmio, e quindi speriamo di poterle dare qualche utile suggerimento. Un minutino di pazienza, Maria Paola. Sì, a tra sì, poco. Certo. Eccoci ritrovati in diretta. Stamattina a Salvadanaio siamo ritornati su un tema che vi piace moltissimo, il mattone, per esplorare un segmento di investimento particolare, quello dei box auto, dei posti auto. Perché? Perché magari è un settore di investimento a cui molti piccoli risparmiatori guardano adesso con interesse, magari tutti coloro che hanno tenuto fermo il proprio risparmio, accantonato in qualche conto di deposito, così liquido in attesa di tempi migliori. La borsa ancora ci dà un quadro di incertezza, le obbligazioni rendono quello che rendono, insomma anche i titoli di Stato italiani hanno dei rendimenti piuttosto scarsi in questa fase, e allora magari si guarda ad altro, qualcosa che viene ritenuto sicuro e comunque in certe città è un investimento anche in questo caso abbastanza importante, abbastanza rilevante dal punto di vista economico. Però molti ascoltatori sono interessati, avevamo promesso di sentire la storia di Maria Paola da Milano ed ecco il microfono, glielo cedo. Maria Paola, buongiorno. Buongiorno. Allora, dunque, ci dica tutto, sì. Allora, la mia domanda è questa. Praticamente, cioè, io devo decidere, dovrei decidere se comprare, non so, due o tre box o comprare un monolocale in provincia di Milano, perché io abito in provincia. Mi viene da pensare che forse più è meglio, diciamo, secondo me, il monolocale, perché non è tanto il guadagno quanto il monolocale non fai fatica ad affittarlo, mentre io vedo che qui nella mia zona anche i box, se si fa fatica ad affittarli, non è tanto il rendimento che mi interessa quanto la sicurezza dell'investimento, che mi possa fruttare qualcosa, e una sicurezza rispetto ai titoli di Stato, capisce, certo, o ad altri investimenti. Chiamiamoli un po', eh? No, Maria Paola, lei ha fatto una considerazione interessante, cioè dice: io nella zona in cui abito lo affitterei senza problemi il monolocale a differenza del box. Al contrario, a microfoni spenti, stavamo facendo una considerazione opposta con gli ospiti. Per esempio in città come Milano il box si dà via come il pane, al contrario, ma anche il monolocale per gli studenti, sono i tagli piccoli, per le città come Milano continua ancora ad andare sicuramente piuttosto bene. Allora ridò la parola magari a Guido Lodigiani, che avevo sentito prima. Cosa suggerirebbe a Maria Paola? Ma nel caso specifico direi sono d'accordo con la signora, quindi vedrei anch'io meglio l'investimento nel monolocale in questa fase, anche perché tre box probabilmente in una situazione di hinterland, quindi dove ci sono molti immobili recenti o nuovi, per cui hanno già i box in dotazione pertinenziali, probabilmente c'è una domanda un po' inferiore a quella che c'è in città, quindi affittarne tre probabilmente sarebbe più difficile, visti gli obiettivi di investimento, quindi che mi sembrano più legati alla qualità del conduttore piuttosto che al rendimento elevato. Fabio Guglielmi, presidente di Professione Casa, quando ci approcciamo all'acquisto di un'abitazione, magari se è la nostra prima abitazione, guardiamo ogni minimo dettaglio, qualche volta non tanto, e a Salvadanaio ci occupiamo spesso anche di questo, di fare tutti i controlli del caso, appunto per certificare che la casa sia a posto dal punto di vista dei requisiti, oggi soprattutto dal punto di vista del risparmio energetico e quant'altro. Per l'acquisto di un box invece dobbiamo controllare nulla? Io direi che dobbiamo usare la stessa diligenza, guardando le aree che maggiormente ci interessano, per esempio le aree di arrivo dei box, quindi la pavimentazione, se all'interno del box vi è umidità, qual è lo stato di manutenzione in generale del cortile, qual è l'utilizzo generale, quindi direi dare la stessa interesse, dare la stessa attenzione di quando si compra una casa, guardando quei punti che insomma sono facilmente rilevabili. Quindi non solo la comodità, diciamo, del posto in cui questo è situato, però anche un momentino anche la qualità della direi struttura, una valutazione generale, perché no, un colpo di telefono all'amministratore per capire se poi come sempre vi sono grandi lavori straordinari e dove questi lavori interverranno. Andrea dalla provincia di Brescia, la Peschiera, se non sbaglio, buongiorno. Buongiorno a lei, io sono itinerante, quindi sono arrivato oramai a Bergamo nel frattempo. C'è un box che l'aspetta oppure dovrà parcheggiare così alla... Dai, io volevo porre due quesiti per gli ospiti. Il primo è in considerazione che nei centri storici si procede normalmente a delle ristrutturazioni di immobili esistenti per la realizzazione di box. Come vengono, tra virgolette, avvantaggiati i valori in funzione del fatto che il box non contenga soltanto una macchina, ma abbia la possibilità di contenere anche, per esempio, scooter, motorini, biciclette. Fare un po' il magazzino anche. Ecco, diciamo, forse magazzino no, perché i pompieri non sarebbero contenti. Però, diciamo, uno spazio per la macchina più importante, oppure per anche degli accessori, quali sono gli scooter normalmente oggi in una città. E in secondo luogo, se la valutazione debba anche prendere in considerazione l'aumento di valore dell'appartamento a cui eventualmente si annette il box, perché oggi come oggi da vendere un appartamento senza box uno mette le mani dietro e difficilmente riesce a prendere i soldi che si aspetta se deve vendere l'appartamento. Avendo invece il box, molto probabilmente il valore del bene che uno vuole andare a cedere aumenta. Andrea, la ringrazio per le sue osservazioni molto interessanti. Lodi Gianni, partiamo da questa seconda ultima considerazione. Quanto aumenta di valore un appartamento se ha una pertinenza associata, in questo caso il box? Chiaro, no, direi che l'appartamento di per sé non è che aumenti di valore. Il box viene valutato a parte in modo sicuramente significativo nei centri storici, ma diventa una dotazione, una pertinenza spesso, soprattutto sugli immobili di lusso o comunque di alto livello, spesso indispensabile per vendere l'immobile. Quindi non è che fa crescere il valore dell'appartamento, ma fa sì che l'appartamento si venda, poi l'appartamento verrà valutato con tutte le caratteristiche proprie, il piano, l'esposizione eccetera eccetera, quindi è un elemento, diciamo, che funziona da facilitatore della vendita, ecco, ma non porta un incremento di valore su un bene scollegato come l'appartamento. La questione dei centri storici invece, la destinazione magari un po' più ampia del box piuttosto che l'auto, motorini, scooter, diceva l'ascoltatore. Ma sicuramente positivo, fa aumentare il valore, direi in modo quasi proporzionale alla metratura, insomma. Quindi un box doppio vale quasi il doppio di un box singolo, vale molto di più. Voleva intervenire Guglielmi anche su questi aspetti toccati l'ascoltatore di Brescia? No, voglio soltanto aggiungere che certamente un box che ha uno spazio più ampio, per esempio per lo scooter, che ancora una volta diventa un mezzo oggi nei centri storici, nelle città, indispensabile per uno spostamento veloce, dà un accrescimento del valore superiore all'aggiunta dei pochi metri quadri. Quindi se per le case calcoliamo molto spesso il valore sul metro quadro, sul box il piccolo aumento spesso accresce molto di più, perché riesce a soddisfare molte più esigenze. Macchina, box e quei piccoli ripostigli che vediamo spesso nei nostri box. Ci sono molti ascoltatori che sono un po' scandalizzati in qualche modo rispetto ai prezzi che abbiamo dato. Questo capita spesso quando parliamo magari di asset e investimento particolari come quello di stamattina. Io mi rendo conto che magari in Sicilia sentir parlare di un box che costa 80-100 mila euro in centro a Milano, abbiamo dato forse una cifra anche a ribasso con Guido Lodigiani, risulta effettivamente scandaloso, ma guardate che le cose stanno così. D'altronde c'è anche un'altra ascoltatrice che è Rosanna, che in realtà è un'amica di Salvadanaio, che ci segue per altre questioni legate al risparmio tradito, che però suggerisce meglio il box al monolocale. Gli inquilini lasciano l'abitazione in genere con danni, non tutti, Rosanna, però qualche volta è chiaro che la casa ha subito un po' di modifiche, il box non ha quella difficoltà. Siete d'accordo, Lodigiani? Gabetti. Ma è sicuramente molto più semplice da gestire per tutte le problematiche poi nel tempo, comunque del dialogo. dialogo, della relazione fra proprietario e inquilino, perché sappiamo che ci sono poi, no, una serie di situazioni di distinzione fra manutenzione ordinaria, straordinaria, di competenza delle spese e quant'altro. Quindi il box da tanti punti di vista è interessante, perché comporta un investimento comunque mediamente, salvo le eccezioni che abbiamo citato, ma mediamente più basso del residenziale, anche del monolocale, ed è meno impegnativo dal punto di vista gestionale successivo. Mm-hmm. Ecco. Per quello che riguarda invece Guglielmi, professione casa, il contratto d'affitto per la casa si fa mediamente il 4+4, oppure altre formule magari di edilizia agevolate, contratti appunto agevolati. Per il box si possono fare, come dire, anche contratti di certamente più brevi, le formule brevi, sì. Sono un po' differenti, dipende la zona, dipende il tipo di richiesta, dipende davvero da molti fattori. Certo, è un contratto, anche come diceva prima il dottor, diciamo, più semplice, più gestibile, più a rotazione molto spesso. Molto spesso il box poi diventa un facile disinvestimento proprio rispetto a quelle persone che l'hanno affittato, che molto spesso chiedono se è possibile acquistarlo con lo stesso box. E poi, insomma, se abbiamo proprio un inquilino che non ci piace, è difficile che gli possiamo cambiare la serratura. Nel caso del box, non so, magari la serranda si chiude, si spranga, non si fa più entrare la macchina di chi l'ha affitto. Vabbè, insomma, tutte cose divertenti che speriamo non accadano. Vorrei sentire la domanda di Maurizio da Firenze e poi sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e gli rispondiamo. Maurizio, buongiorno. Oh, buongiorno a lei e a tutti ai suoi ospiti. Senta, io sono un agente immobiliare di Firenze, no? E vorrei sapere dai suoi ospiti da dove hanno avuto le notizie sul fatto che i box a Firenze hanno avuto un aumento di prezzi, cosa che a me e a molti altri agenti immobiliari non risulta. Guardi, non me l'hanno detto loro, quindi non è, no, glielo preciso subito, non è ricerca di Gabetti, professione casa, io avevo quella di Tecnocasa. Tra l'altro questa mattina sono stati interpellati per questa trasmissione per una serie di problematiche loro interne, non hanno potuto mandarmi un interlocutore, però io ho la tabella sulla loro ultima rilevazione. Sì. Firenze, valore dei box più 1,5% per il posto auto, meno 1,7% secondo semestre 2009. Appunto, questo è. Perché specialmente nel centro di Firenze c'è stato un crollo dei prezzi in quanto tutti gli uffici sono stati delocalizzati, sono stati mandati nelle periferie, compreso i tribunali e via dicendo, per non parlare delle scuole. E sicché si va da una base di costo dei 24-25 mila euro nell'immediata periferia di Firenze, per non arrivare a un 50-60 mila euro nel centro. Per quanto riguarda gli appartamenti, anche gli appartamenti hanno avuto un calo, finché si tratta di vendita di monolocali o bilocali, sì, c'è ancora una certa tenuta, perché sono i prezzi più accessibili e come ha detto lei le banche hanno allargato un po' la cinghia. Sul fatto dei grandi immobili ci sono dei prezzi un po' più sostenuti, però tra la richiesta e l'offerta c'è un divario esagerato, per cui molte persone decidono di toglierlo dal mercato. Le basta dire che io, come tanti altri colleghi, tante altre agenzie, qui si parla di 6, 7 mesi, 8 mesi per poter fare una vendita. Lo so, c'è molta richiesta per gli affitti. Lo so anche io, perché no, grazie a lei per la sua bella testimonianza. Bellissimo il messaggio dell'ascoltatore che ci scrive: in vista della mobilità elettrica conviene comprare un box con elettricità. Beh, ci auguriamo che quantomeno il minimo sindacale della presa di corrente, Guglielmi di professione casa, ci sia, anche se è una stanza con poche pretese, generalmente, magari una mensola, insomma, per appoggiarci, non lo so, per esempio sopra il ricambio dell'olio, poche altre cose. Speriamo che questo ci sia. Firenze, che cosa le suggerisce tutto quello che ci ha raccontato l'ascoltatore, che il vostro collega peraltro, che ci chiamava da lì? Che certamente l'Italia non è un'unica regione, non è un'unica città, ci sono comportamenti diversi, talvolta anomali, talvolta molto particolari, e devo dire che l'ascoltatore di Firenze ha detto cose corrette. Per quello che riguarda gli uffici c'è stata una forte decentralizzazione e conseguentemente, insomma, il resto del comparto è andato, probabilmente c'è una minore necessità anche di posti auto e box. Anche qui però poi dovremmo frazionare la città nel centro storico, dove tutto ciò accade molto meno. Rimanendo sempre alla Toscana, Daniela ci scrive: Viareggio, i prezzi degli immobili mai abbassati, quindi bisogna vedere anche. È chiaro che magari per un agente immobiliare che fa fatica a concludere gli affari in questo momento, perché c'è una forte forchetta di esigenza tra chi compra e chi vende, è chiaro che alla luce di quello che sta accadendo, chi sta cercando di comprare adesso magari si avventura in una trattativa estenuante con il venditore, che invece fa proprio fatica ad abbassare i prezzi. Sì. Alla luce di quello che è successo qualche anno fa, vorrebbe mantenerli lì. Questa è certamente la regola. Se in fase di presentazione spesso il prezzo non rileva la diminuzione dei prezzi che vediamo su tutti i giornali, la fase di trattazione è un po' più ampia e questa forbice ancora sufficientemente distante tra domanda e richiesta iniziale finale va ad assottigliarsi, a trovare una conclusione proprio in fase di trattazione, che ha dei tempi e delle dinamiche forse un po' più lunghe, ma non particolarmente diverse da quelle di prima, solo che prima era il venditore che faceva gioco forza, oggi l'acquirente ha acquisito maggiore forza, maggiore capacità di contrattazione, maggiore capacità di negoziazione. Certo, poi dipende sempre anche dall'interlocutore che si trova. Se il venditore non ha fretta di vendere, aspetta e magari riesce a spuntare anche il prezzo che vuole, in caso contrario, se ha velocità di monetizzare, magari più disponibile alla trattativa. Anche se ricordo sempre che il tempo è denaro, aspettare 2 anni per vendere un immobile, non so poi quanti termini assoluti renderà. E poi dipende, insomma, se è un investimento puro si ha un po' più di pazienza, se invece bisogna, insomma, vendere per cambiare casa velocemente, la trattativa chiaramente ha un altro percorso. Guido Lodigiani, Gabetti, abbiamo parlato di città particolari, Milano-Roma, sempre quelle monitoriamo, ho citato Venezia, abbiamo parlato di Firenze, qualche ascoltatore ci chiede del Sud Italia, un ascoltatore fa un riferimento ad un quartiere specifico, adesso vorrei esagerare addirittura chiedendo i prezzi al metro quadro di questo quartiere a Bari, a Guido Lodigiani, però le città del Sud Italia, è un mercato vivace quello dei box e posti auto? Quali città hanno le stesse esigenze, le stesse preoccupazioni di Milano e Roma, per esempio? Ma direi che è un mercato in cui i valori sono nettamente più bassi, questo generalmente, appunto, con l'eccezione di Napoli, no, zona Duomo, zona Vomero, quindi alcune zone molto popolose e anche un po' datate in cui i prezzi superano anche i 100.000 euro a box, però proprio queste zone specifiche. Mediamente penso anche a Palermo eccetera, i valori sono nettamente più bassi e anche i canoni di locazione, insomma, quindi si sta intorno ai 100 euro al mese, per dare un'idea, 100-120. A Milano, non so, in semicentro si va dai 200 ai 250. Ecco. Incredibile, veramente il prezzo di un bilocale in una zona semiperiferica. Allora, Leonardo da Ferrara. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie. Sento, io possiedo un box auto, parlo da Ferrara, centro storico, per uso personale. Mi è capitata l'opportunità, sono liberati 2 box adiacenti e io come investimento volevo chiedere una vostra opinione se era conveniente. Faccio 2 cifre. Investimento per un box 40.000 euro cada uno e subentrare a un affitto già esistente di 130 euro mensili. Attenda lì che i miei 2 interlocutori stanno facendo dei calcoli mentali per valutare un po' la convenienza e l'opportunità economica di questo investimento. Lodigiani, allora, intanto Ferrara, per esempio, che caratteristiche ha questa città? Adesso, a parte tutto, non so, nei vostri monitoraggi, l'Emilia Romagna, no, ma diciamo un profilo di capoluogo di provincia, sì, sicuramente abbastanza benestante. 40.000 euro mi sembra una cifra un po' impegnativa, però. Mi sembra un po' impegnativa. Sai, ci siamo abituati ai 250.000 di Milano, so, a noi però sembrava invece un ottimo investimento. No, la vedo un po' altina. Ah. Per dare un riferimento, in semicento a Trento, per dire, va fra i 25 e i 30.000 euro, no, come prezzi di box. E Trento, no, una realtà universitaria del nord, così, per dare un'idea, quindi 40, a meno che non sia proprio molto centrale, forse un po' altino. Un pochino potrebbe un po' trattare. Guglielmo è d'accordo? Oppure lei, insomma, spingerebbe d'accordo per mantenere questa soglia? Faccio un calcolo semplice: se abbiamo detto che il rendimento di un box sta tra il 5 e il 6%, come il canone si fa a calcolare il rendimento di un box? Valore del box per la percentuale che abbiamo stabilito. Facendo un calcolo semplice, mi sembra che questo box per valere 40.000 euro dovrebbe rendere 6x5, 30, insomma. Quindi mi sembra che con 130 sia più conveniente entrare in affitto che acquistarlo. Capito. Benissimo, insomma. Quindi anche qualche indicazione pratica. Lei invece, relativamente al discorso che facevamo prima con Lodigiani sulle aree del Sud Italia? Non posso che confermare. Napoli è una città molto diversa da Bari, che è diversa da Palermo. Ecco, diciamo che magari al sud i piccoli centri, quindi non i capoluoghi di provincia, ma gli altri centri, hanno dei prezzi certamente più bassi e vi è, per certi versi, anche un po' per storicità, una migliore possibilità di parcheggio. quindi conseguentemente il box serve un pochino meno. Poi anche qui dovremmo fare una valutazione generale circa i posti riservati, le aree a parcheggio limitato, eccetera eccetera eccetera. Le città della costa, c'era un interlocutore di Bologna che non so se riusciamo adesso a recuperare, però voleva chiedere: garage in vendita a Riccione, 14 metri quadrati circa, 37.000 euro, gli sembra una cifra astronomica rispetto ai 40.000 di Ferrara? Peraltro poi l'ascoltatore non ci ha detto neanche la metratura, mi pare, del garage e del box out appunto in centro a Ferrara. Però per esempio per Riccione, che si anima enormemente in estate, magari forse vale la pena spendere qualcosa in più, Rodigiani? Sì, direi che sicuramente è più corretto i 37 di Riccione, perché poi a parte che è una delle località di punta dell'Adriatico, forse la località principale, quella più cara, in cui soprattutto nei mesi estivi, comunque insomma da giugno a settembre, poi c'è molta pressione, ricerca di parcheggio, quindi sicuramente intorno magari a cifre, anche lì vedo un attimo più basse, ma siamo più vicini, ecco. La nostra trasmissione sta volgendo al termine, lascio concludere, visto che è la prima volta che viene da noi Fabio Guglielmi di Professione Casa. Allora, noi chiaramente monitoriamo in maniera ossessiva, perché abitiamo qua, Milano e le altre città un po' problematiche per il parcheggio, ma nelle città invece dove non ci si pone questo problema, ma tutto sommato magari il box può rappresentare una buona occasione di investimento, dove li metterebbe lei un po' di soldini? Li metterei sempre in aree che richiedono, per una serie di motivi, che può essere legato alla presenza di particolari attività che prevedono la presenza di auto, questi miei soldi. Un ospedale piuttosto che un'università, piuttosto che un grande spazio di uffici, un grande arrivo di metropolitane. Quindi uno spazio in cui prevede, al di là della necessità del singolo individuo che abita quella zona, una necessità più ampia. Lodigiani, 10 secondi li do anche a lei. Stessa domanda. Per investimento, ma vedrei, ma molto seguirei le zone su cui sono previsti dei progetti infrastrutturali a breve. Benissimo, grazie per i vostri suggerimenti molto pratici questa mattina, quindi siamo molto contenti. A Guido Lodigiani di Gabetti, Fabio Guglielmi di Professione Casa, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Paolo Corleone in assistenza tecnica, il vostro Salvadanaio torna domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata.